Capitolo quinto. I grandi temi. Domande che si ripetono da sempre. Pim. Ci sono alcune domande che gli uomini si facevano in tempi antichi e continuano a farsi ancora oggi. Me le faccio spesso anch'io. E vorrei parlarne con voi. La mia curiosità riguarda chi siamo, il perché della vita, il perché delle prove della vita, che sono tante e spesso dolorose, malattie, povertà, guerre, fame, ingiustizie. E poi, il perché della morte, e cosa c'è dopo la morte. Mi rendo conto che il tema è vastissimo, ma è anche vastissima la curiosità sull'argomento. Guide e maestri. Comprendiamo la curiosità. Desideriamo richiamare la tua attenzione sul fatto che molte delle domande che ci hai appena fatto, hanno già trovato risposta in ciò di cui abbiamo conversato finora. Ripetere è utile. È bene riparlarne, e non ci sorprende che tu chieda di nuovo. Ancora una volta, la vostra mente non riesce a comprendere. È l'intuizione che vi ci porta. Chi siamo? Gli esseri umani non sono altro che la parte dell'uno focalizzata in questa dimensione terrena. Non c'è alcuna separazione tra noi e voi. Non c'è alcuna separazione tra la parte di voi incarnata, e quindi in oblio, e la parte di voi non incarnata. Quando sognate, il mondo che sognate vi sembra molto reale. Quando vi svegliate pensate era solo un sogno. Ma se aveste continuato a dormire all'infinito, quella sarebbe diventata la vostra realtà. Perché? Perché non avreste avuto un punto esterno di riferimento. La dualità di Gaia. Gaia vi dona l'illusione della separazione, in modo che possiate fare scelte, e dipingere la vostra creazione, la vostra vita, come più vi piace. Eternità. La vita è eterna. Non c'è né inizio né fine. È eterna e in continua espansione. Questa esperienza su Gaia è parte della vita eterna. La morte non esiste. È semplicemente un passaggio attraverso il quale la parte della vostra consapevolezza incarnata, potete chiamarla anima, o nota originaria, se preferite, ritorna a fare parte dell'uno. Ci teniamo a sottolineare nuovamente che non c'è separazione. Andate oltre le parole. L'oblio si solleva nel momento in cui lasciamo il nostro corpo fisico, riportandoci al nostro stato di consapevolezza pura ed espansa. Più espansa, grazie al nostro passaggio terreno. La visione dell'ego, malattie, guerre, povertà, come ingiustizie. Solo l'ego percepisce malattie, guerre, povertà, eccetera, come ingiustizie. Sappiamo perfettamente che queste parole causeranno tumulto nella mente di tanti, ma è necessario comprendere che nulla esiste al di fuori dell'uno, e che il libero arbitrio è totale. Creiamo la nostra realtà. Siamo liberi di creare in qualunque direzione. Ciò che va trasformato, è il punto da cui creiamo. Creiamo dall'ego o dalla nostra nota originaria? Creiamo da amore o da paura? Siamo solo noi e sempre noi a scegliere, e la nostra scelta può cambiare completamente le situazioni di guerre, malattie, povertà, eccetera. Quando creiamo in accordo con la nostra nota originaria, in accordo con la nostra anima, siamo guidati in direzione dell'amore incondizionato, e del servizio verso noi stessi e gli altri. Quando creiamo seguendo l'ego e la paura, ascoltiamo note e suoni differenti, e il tipo di esperienze che si producono ne sono la dimostrazione. Tutto ciò è comunque parte dell'uno, così come lo è il vostro desiderio di cambiare, di migliorare quella situazione di povertà, guerra, violenza, eccetera. Ancora una volta, senza quella precisa esperienza, senza l'osservazione di quella specifica situazione, non sarebbe nato dentro di voi il desiderio, l'idea del cambiamento. La cosa importante è concentrare la propria attenzione sulla soluzione, e non continuare a giudicare, amplificare e mettere in risalto ciò che desiderate cambiare. Più praticate la nota che non desiderate, e più energia mettete nel suono di ciò che non volete. La visione dello spirito, crescita. Tutto ciò che viviamo su Gaia, porta con sé il dono della crescita spirituale. Questa crescita avviene sia che ne siamo consapevoli in terra, oppure no. Nel momento in cui lasciamo andare il nostro corpo fisico, ci rendiamo conto di come ogni piccolo particolare della nostra esperienza abbia contribuito a questa crescita amorevole. La scelta di Gaia per crescere. Prima di incarnare parte della vostra consapevolezza sul mondo terreno, e quindi fisico, sapevate esattamente dove, come, e quando. Con questo intendiamo che vi siete scelti molti dei particolari, inclusi i genitori, il luogo di nascita, la situazione generale della vostra famiglia di arrivo. Le cosiddette difficoltà, specialmente all'inizio, formano una mappa che ci darà l'opportunità di crescere coscientemente qui e ora. La vostra nota originaria si espande comunque, cresce. È la testimone, è l'osservatrice che si espande con ogni vostra scelta, con ogni vostra esperienza. Una crescita spirituale immensa. La vostra nota originaria si espande unicamente in direzione dell'amore puro che è. Non conosce nessuna sensazione di povertà, o violenza, o tristezza, o depressione. Come potrebbe mai? La vostra nota originaria è l'uno, con l'uno, dell'uno. I segnali della nostra nota originaria, dell'anima. E infatti proprio per questo motivo vi siete ripromessi, prima di incarnare parte di voi su Gaia, di ascoltare la guida della vostra nota originaria. E la vostra nota originaria ha promesso di non smettere mai di segnalarvi quando siete in armonia, o disarmonia, con la vostra natura di creatori meravigliosi e amorevoli. Amatevi quando vi sentite bene, e amatevi ancora di più quando vi sentite male. Quel male che avvertite non è altro che un segnale amorevole della vostra anima che vi chiama verso una direzione diversa, un pensare diverso, una percezione diversa. Immaginate la vostra anima come il migliore amico nell'intero universo, continuamente con voi, in ogni istante, un amico che vi sussurra, tramite il modo in cui vi sentite, la direzione del vostro creare. Conversazione sui grandi temi. La vera realtà. Pim. Ciò che ci state dicendo e ciò che noi crediamo sono cose molto diverse. Vorrei capire meglio quale è secondo voi la vera realtà. Guide e maestri. Esiste solo una realtà, siamo creatori infiniti, consapevolezza pura, e amore incondizionato. Siamo potenti come l'uno, perché siamo l'uno. Tutto ciò che è nel mondo fisico è l'uno, tutto ciò che è nel mondo non fisico è l'uno. Sarebbe troppo lungo parlare di tutto ciò che è fisico o non fisico. La vera realtà di tutte le cose, fisiche o no, è nota, suono. E la legge che regola e che mette insieme note e suoni è la legge dell'attrazione dei simili. L'uno, nelle sue infinite sfaccettature, manifestate nel mondo fisico oppure no, è la nota originaria universale di amore incondizionato, che desidera fare esperienza di se stesso, attraverso suoni e note di ogni sorta. Pim. Che cosa vuol dire questo in termini pratici quando siamo incarnati su Gaia? Guide e maestri. Vuol dire che in ogni istante, quando siete pienamente armonizzati con la vostra nota originaria, vi ricorderete che non c'è nessun essere superiore al di fuori di voi. Vuol dire che vi ricorderete che solo voi decidete il vostro destino, e i sì o i no. Voi siete Dio parzialmente incarnato in un corpo fisico, che sta facendo esperienza di se stesso. È accurato quindi affermare che l'uno è allo stesso tempo colui che dona e colui che riceve, e di conseguenza i sì e i no siete voi a deciderli. Siete completamente liberi. Abbiamo appositamente usato il termine Dio, per sottolineare il fatto che voi siete quel potere, quel creatore, che tante religioni sostengono sia superiore e al di fuori di voi. Voi siete Dio, e quindi tutto esiste in voi. Siete colui che si dona tutto ciò che ritiene necessario alla sua crescita, e colui che lo riceve. Nessuno al di fuori di voi ha il potere di scegliere cosa è appropriato o no nella vostra esperienza. È unicamente una questione di ricordo e di armonizzazione con la vostra nota originaria. Visto in questi termini, l'uomo non è più solo uomo, è divino, inseparabile, espressione dell'uno. L'umanità ha un ruolo, nel senso che permette all'uno di crescere. Ma l'uno è l'umanità, e l'umanità è l'uno. I ruoli spariscono, c'è solo unità. La crescita è eterna, non c'è né inizio né fine. Tutto è. Altri mondi, altri ora. Pim. Una volta terminata la nostra esperienza di vita su Gaia torniamo in cielo. Vi chiedo se la nostra prossima esperienza, per continuare a crescere ed espanderci, è necessariamente Gaia, o invece potremmo scegliere altri mondi, o magari altri ora di Gaia? Guide e maestri. Le possibilità sono certamente infinite. Nel momento in cui lascerete il vostro corpo fisico avrete il menù dell'uno a vostra disposizione, e la scelta sarà come al solito un'esperienza piena di gioia e divertimento. Ma la possibilità di scegliere altri ora e altri mondi è un tema che non appartiene a queste conversazioni. Ciò che è richiesto in questo ora è fare esperienza della crescita gioiosa su Gaia. La creazione. Pim. Nella conversazione sull'essere creatori, ci avete detto che quando l'uno era uno, prima che la manifestazione materiale avvenisse, non c'era possibilità di fare esperienza di se stesso, non c'era possibilità di crescita. Da quello che avete detto sembrerebbe che ad un certo punto dell'eternità, qualcosa è successo. È come se l'uno si fosse moltiplicato, manifestandosi in una dimensione materiale per fare esperienza di se stesso. La mia mente umana qui si perde e nascono mille ipotesi e tante domande. Questa manifestazione dell'uno in materia, è quella che noi chiamiamo creazione. La creazione del cielo, della terra, degli animali, dell'uomo? Guide e maestri. La nascita del mondo fisico è avvenuta nel momento in cui l'uno ha avvertito il desiderio di fare esperienza di se stesso. Un desiderio che si è manifestato nella creazione di ciò di cui ora potete fare esperienza con i vostri cinque sensi, incluso naturalmente il vostro corpo fisico. Questo suono originario, nella sua gioia di creare e crescere, ha cominciato a dare origine ad altri suoni in armonia con la sua nota primaria. Un processo di armonizzazione spettacolare, che ha portato, attraverso l'aggregazione di risonanze in accordo completo tra di loro, alla creazione di ciò che potete riconoscere come il mondo fisico, l'universo fisico. È stato già detto che in questo universo tutto è energia. Possiamo chiamarla energia, vibrazione, frequenza. A noi piace chiamarla suono, nota. È importante comprendere che il suono primario, la nota originaria universale, o amore incondizionato, crea e cresce attraverso un processo di risonanza regolato, messo insieme, messo in atto, dalla legge dell'attrazione dei simili. Note dal suono simile, in risonanza l'una con l'altra, si aggregano creando una sinfonia energetica che darà origine ad una manifestazione particolare nel mondo fisico. È così che l'uno, il grande compositore del tutto, attraverso il suo grande desiderio di conoscere se stesso e di crescere gioiosamente, ha iniziato a comporre il mondo fisico, dove tutti i vari elementi, le varie note e suoni individuali, e l'illusione della separazione e differenziazione, gli avrebbero fornito uno specchio gigantesco dal quale desiderare, scegliere, fare esperienza, creare. Tutto ciò che osservate sul vostro pianeta è espressione delle infinite sfaccettature dell'uno, e il processo di crescita gioiosa è infinito, è eterno. Pim. Una volta che ritorniamo a far parte dell'uno, cosa rimane della nostra esperienza su Gaia? Guide e maestri. Ciò che rimane della vostra esperienza su Gaia è la vostra capacità di amare voi stessi, perché nell'amare voi stessi avrete amato la divinità in voi e negli altri, che altro non sono che un'espressione di quella stessa divinità. La vostra crescita e la crescita del tutto sono basate sull'espansione dell'amore incondizionato, in varie forme, in varie esperienze e manifestazioni. Siamo creatori di amore incondizionato. L'espansione della vostra nota è eterna e non vi lascerà mai. È la vostra nota originaria, l'Eterno, la divinità in voi. Ogni qualvolta decidete di fare esperienza di voi stessi, ovunque siate, porterete con voi quella nota che vi distingue, non nel senso di separazione ma nel senso di suono, che esiste all'interno dell'unicità del suono primario, della nota originaria universale, dell'uno. Potere creativo e programma. Pim. Sto pensando a due vostre risposte, che mi fanno venire in mente una nuova domanda. Avete detto che prima di nascere decidiamo il percorso ideale per la nostra crescita. Queste le vostre parole, prima di incarnare parte della vostra consapevolezza su Gaia, sapevate esattamente dove, come e quando. Vi siete scelti molti dei particolari, inclusi i genitori, il luogo di nascita, la situazione generale della vostra famiglia di arrivo. Le cosiddette difficoltà, specialmente all'inizio, formano una mappa che ci darà l'opportunità di crescere coscientemente qui e ora. Avete anche detto che ciò che il nostro potere creativo può concretamente e realmente fare su Gaia è praticamente tutto, senza limiti. Mi sembra che la prima risposta ci fa capire che esiste una mappa, un percorso ideale deciso prima di nascere, e che la seconda risposta ci dice che abbiamo il potere di creare. La mia domanda è questa: che succede se quando sono su Gaia desidero creare qualcosa, che è in contrasto con il percorso ideale per la mia crescita, che avevo scelto quando ero ancora in cielo? Guide e maestri. Programma e libero arbitrio. Scendiamo su questo pianeta con una mappa vibrazionale, che sappiamo in anticipo ci fornirà un territorio ideale per ciò di cui desideriamo fare esperienza per la nostra espansione gioiosa. Scegliamo molti dei particolari di entrata prima dell'incarnazione, la lingua che parliamo, il luogo di nascita, genitori, fratelli, sorelle, situazione economica, eccetera. Ma questa è solo una mappa, non c'è nulla di rigido e definitivo, e il nostro libero arbitrio è sempre e comunque rispettato. Se decidiamo ad un certo punto del nostro cammino di deviare dal progetto iniziale, quella deviazione ci fornirà sempre e comunque infinite possibilità di crescita ed espansione. In alcuni casi ritorniamo alla mappa, al progetto iniziale, e in altri prendiamo la decisione di avventurarci in qualcosa di diverso che per qualche ragione ha attirato la nostra risonanza interiore. Siamo completamente liberi di muoverci in qualunque direzione. Pim. Quindi, se la mappa prevede un incontro con chi abbiamo deciso di formare una famiglia, diventando marito o moglie, o compagno o compagna, e una volta incarnati cambiamo idea, il nostro libero arbitrio prevale e il progetto ideale svanisce? Guide e maestri. Anche l'incontro con colui o colei che risuona con il vostro io interiore in maniera particolare non è statico, e perciò può evolversi nell'andamento terrestre. Che cosa intendiamo? Ancora libero arbitrio. La risonanza iniziale è in continuo movimento, espansione e crescita gioiosa. Quindi ci potrebbero essere dei cambiamenti di direzione, oppure no, dipende sempre dalla discordanza o dall'accordo energetico. Tutto è in continuo movimento, in continua crescita. Ciò che è prioritario, come continuiamo a ripetere, è il vostro accordo individuale con la sorgente originaria, la vostra nota originaria. Tutto il resto, incluse le persone, è secondario all'armonia del vostro essere con il divino in voi. La vostra nota originaria vi guiderà, sempre e comunque, in direzione del vostro cuore, del vostro amore verso voi stessi, e a ciò che ne è in risonanza in ogni ora. Pensate in termini di fluidità, flusso e movimento armonioso. È stata una bella conversazione. C'è solo amore.